Il sito delle storie presenta Senza te di Riccardo Mini, terza e ultima parte. Daniela corre verso Sara, la chiama per nome. Cerca di scuoterla per svegliarla, ma poi si ricorda che i feriti non vanno spostati. Deve trovare un telefono. Si ricorda che il cellulare, quello di Sara, ce l'ha ancora lei dentro la borsetta. Fa il numero del pronto soccorso, chiede un'ambulanza, corre verso un incrocio per cercare il nome della via. Poi torna da Sara, che è ancora priva di sensi. Le si siede accanto e aspetta. Mentre aspetta, si mette a guardare i condomini sui due lati della strada. Nessuno sembra essersi accorto dell'incidente. Qualche finestra ai piani alti ogni tanto si illumina. Una figura nera senza volto viene ad affacciarsi. Osserva la scena, magari si sporge, poi però in fretta sparisce e la luce si spegne di nuovo. La macchina dell'investitore è ancora lì, ferma a una ventina di metri da loro. La portiera aperta, le luci ancora accese. Daniela si volta a guardarla e rimane a fissarla per un po'. Poi si alza e le va vicino. Guarda dentro. Le chiavi non ci sono. Continua a guardare, fruga in giro, come se stesse cercando qualcosa. Mentre fa per uscire, la borsetta le rimane impigliata nello specchietto retrovisore e tutto il contenuto si rovescia, un po' per terra, un po' sul sedile. Imprecando tra sé e sé, per la propria sbadataggine, Daniela raccoglie tutto e lo rimette nella borsa. Poi controlla che nella borsa ci sia tutto. Controlla anche sotto la macchina. Sì, sembra proprio che ci sia tutto. In quel momento si sente una sirena e dallo stesso angolo da cui era comparsa la macchina assassina sbuca ora l'ambulanza. Daniela indietreggia velocemente, va a nascondersi dietro un albero e osserva la scena da lontano. L'ambulanza si ferma vicino a Sara, scendono due infermieri che si guardano intorno in cerca di testimoni ma non trovano nessuno. Caricano Sara su una barella, poi l'autista dell'ambulanza va a citofonare ad uno dei palazzi di vicino. Chiede se qualcuno abbia visto qualcosa dell'incidente, conosca la vittima o possa raccontare cosa sia successo. Daniela non sente la risposta, ma è molto breve. Infermiere e autista risalgono sull'ambulanza, che riparte a sirene spiegate e scompare nella notte. Daniela non sa cosa fare. Controlla l'ora, è mezzanotte e mezza. Per tornare a casa a quest'ora dovrebbe chiamare un taxi e non sa neanche che numero fare, tanto poco è abituata ad uscire la sera. Poi nota un oggetto, una forma scura che giace dimenticata lì per terra, sotto un lampione, a qualche metro da lei. Va a raccoglierlo, lo riconosce, è la borsetta di Sara. Daniela la apre. Dentro trova un portafoglio con i documenti, qualche soldo, un portacipria, un paio di volantini, un rossetto e le chiavi di casa. Prende i documenti e li controlla. Quella sulla foto è proprio Sara. Poi cerca l'indirizzo. Come immaginava, proprio il portone lì di fronte, quello dove Sara stava per entrare. Daniela prende le chiavi di casa, con fare circospetto si avvicina al portone ed entra nel palazzo. Ci mette un po' a trovare l'appartamento. Comincia dal primo piano, legge tutte le targhette fuori dalle porte e le confronta con il cognome di Sara che ha trovato sui documenti. Alla fine lo trova, al quinto piano, in fondo al corridoio. Entra senza far rumore, come una ladra, attenta a non farsi sentire, perché non sa chi potrebbe trovare. Ma l'appartamento è vuoto. È formato da due stanze con una piccolissima cucina. Il letto è sfatto, probabilmente Sara è una di quelle che lo rifanno la sera quando tornano a casa dal lavoro. Chissà che lavoro fa. Nel lavandino ci sono le tazze della colazione, ancora da lavare. Daniela allora, istintivamente, non sa neanche lei perché, si toglie il cappotto e si mette a lavare le tazze. Poi va in camera da letto e rifà il letto. Quindi va in sala. Sopra una credenza, accanto alla finestra, trova una foto incorniciata di Franco e Sara, insieme, su una spiaggia che si abbracciano. Sul divano ci sono vestiti ammucchiati e sul tavolino di fronte al divano un posacenere e un pacchetto di sigarette quasi vuoto. Daniela prende una sigaretta e se l'accende. Le gira la testa, è da anni che ha smesso di fumare, e si siede sul divano. L'arredamento è vecchio e fuori moda, probabilmente l'appartamento è stato preso in affitto già ammobiliato. La luce fioca dell'abajur illumina la stanza, sul tavolo ci sono alcune lettere e una penna. Daniela si china a guardare meglio, le lettere sono due, hanno la stessa data e sono entrambe indirizzate a Franco. In una delle due Sara dice di volerlo lasciare, dice di sentirsi umiliata, ferita, dice che rivuole indietro la sua vita. Nell'altra, la prima parte è identica, si sente umiliata, ferita, ma poi il tono cambia e diventa una minaccia, la minaccia di andare a dire tutto alla moglie di Franco, se non si deciderà a farlo lui stesso. Nessuna delle due lettere è conclusa, Nessuna delle due è stata spedita. Daniela le rilegge, poi le piega una dentro l'altra e se le mette in tasca. In quel momento il cellulare di Sara comincia a squillare. Daniela guarda il display. È il numero di Franco. Lo lascia squillare a vuoto, aspettando che smetta, ma quando parte la segreteria, dopo qualche secondo di silenzio, ecco che ricomincia. Daniela preme il tasto di rifiuto chiamata, poi continua a tenerlo premuto, e il cellulare si spegne. Lo rimette nella borsetta. Si infila il cappotto, spegne la luce dell'abat-jour ed esce, silenziosamente, in punta di piedi, così come è entrata. Scende le scale in fretta, e quando è arrivata quasi al portone, vede che in strada dall'altra parte del vetro c'è Franco. Lo vede che preme ossessivamente lo stesso pulsante sul citofono. Lo vede parlare, alla bocca aperta, forse grida, ma non sente cosa dice. Alla fine, rassegnato, si allontana, risale in macchina e scompare. Quando Daniela è sicura che se ne sia andato, esce in strada. Ormai è molto tardi, devono essere le 2, forse le 3. Tuttavia Daniela non è stanca, anzi decide di camminare. Si sente forti le gambe e la mente lucida, quasi leggera. Daniela è appena rientrata a casa quando squilla il telefono. Senza neanche togliersi l'impermeabile, va a rispondere. Pronto? Ciao, sono io. Franco? Sì, dormivi? No, sono sveglia. C'è una pausa in cui ognuno dei due sembra aspettarsi che l'altro dica qualcosa. Alla fine Franco parla. Volevo dirti che qui è tutto a posto. Ieri per poco non perdevo l'aereo per via del temporale. Sono arrivato tardissimo. Adesso lì com'è? Com'è che cosa? Il tempo. Il tempo va bene. Un'altra pausa. Poi parla Daniela. Avevo ragione, hai visto? Su cosa? Sul temporale. Tu dicevi che non c'era, invece c'è stato. È vero, avevi ragione. Comunque volevo dirti che magari ce la faccio a tornare qualche giorno prima del previsto. D'accordo, adesso però devo scappare, ti lascio. A presto, ciao. Mentre riagganci il ricevitore, Daniela ripensa quell'ultima frase, ti lascio, che ha detto Franco. Peccato, le ha rubato la battuta. Pazienza. Come prima cosa va a farsi una doccia, lunga e calda, anche se la giornata è di sole e promette temperature elevate. Poi va a stendersi sul divano. È stanchissima, le fanno male le gambe per la lunga camminata. Sta quasi per addormentarsi quando suonano alla porta. Daniela va ad aprire. Ci sono due poliziotti in divisa. Buongiorno, signora, ci scusi il disturbo. Suo marito è in casa? No, è via per lavoro. È fuori città? Così mi ha detto. L'ho sentito un minuto fa al telefono. L'altro poliziotto tiene in mano un oggetto scuro e lo mostra a Daniela. Per caso riconosce questo oggetto? Ma sì, certo, è l'agenda degli appuntamenti di mio marito. La porta sempre con sé quando parte per lavoro. Gli è successo qualcosa? No, crediamo di no. Almeno a lui no. Questa agenda è stata rinvenuta dentro la macchina di un pirata della strada che ieri notte ha investito una donna. Soltanto che la macchina era stata rubata. E siccome l'agendina appartiene a suo marito, vorremmo sapere come ci è finita lì dentro quella macchina rubata. Mi sembra giusto, vorrei saperlo anch'io, ma prego, entrate. I due poliziotti entrano. Come sta? Chiede Daniela dopo aver chiuso la porta. Come sta chi? La donna, quella investita, come sta? Ah, quella, è morta, è prima ancora di arrivare in ospedale. Daniela sente un tuffo al cuore, rimane ammutolita senza riuscire a rispondere. Dopo qualche secondo di imbarazzato silenzio, uno dei due poliziotti dice «Se per lei non è un disturbo, ci piacerebbe dare un'occhiata tra le cose di suo marito. Ovviamente non abbiamo un mandato ufficiale. Prego, prego, ci mancherebbe. Mio marito non ha nulla da nascondere. Aspettate solo un attimo, dovrei andare a vestirmi. Faccia con comodo, noi aspettiamo qui». Daniela corre in camera da letto e si chiude la porta alle spalle. Deve pensare in fretta. Si veste velocemente. Poi le viene in mente una cosa. Apre la borsetta e ci fuga dentro. Eccole lì, ancora piegate, le lettere di Sara. Delle due, prende quella che minaccia di dire tutto alla moglie, l'altra la lascia nella borsa. Ora è in fretta, al lavoro. Deve cercare un posto dove nasconderla. Deve essere un posto sicuro, tra le cose di suo marito, che so, tra due camicie oppure in fondo al cassetto del comodino, un posto dove lei, la moglie, non guarderebbe mai. Un marito infedele. Ecco sì, la cosa un po' alla volta prende forma nella mente di Daniela. Una specie di piano, un pezzetto dopo l'altro, ma deve fare in fretta. Un marito infedele che riceve una lettera non gradita, un'amante pericolosa, stanca di aspettare, che minaccia di dire tutto alla moglie e mandare all'aria il matrimonio. Questo lui non può permetterlo. Allora decide di eliminarla. Ruba una macchina per fingere un incidente, ma ahimè accidentalmente dimentica nella macchina l'agendina che lo incrimina. Con un po' di fortuna il piano potrebbe funzionare. Certo è rischioso, anche Daniele è stato con Sara. Forse qualcuno li ha visti insieme, e addirittura è andata a casa sua. Ma con un po' di fortuna. Ora però basta, non c'è tempo per pensare, di là ci sono i due poliziotti che aspettano. Bisogna muoversi, agire. Da qualche parte nella sua testa sente una voce che le dice, bisogna vivere. Si guarda allo specchio un'ultima volta, per darsi coraggio, prima di uscire dalla stanza semibuia. Poi torna dai due poliziotti, rivolgendo loro un sorriso quasi sincero, e dichiara, ho finito, frugate pure, è tutta per voi. Fine della terza e ultima parte.